Pensando al mondo non si può sognare. Qui si dice che è proibito anche fantasticare. Ci vuole concretezza per non crollare, o non fermare il cielo per non morire. Oh, 1, 2, 3, 4. Sono mande e per sposta. Chiudo gli occhi, guardi in alto, che risero sono rimasto. Forse sembrano cretino, ma continuo il mio cretino, forse sembrano cretino, ma continuo il mio cretino, e...